Rosciani e Meazza, buongiorno. Sono un ascoltatore di valore planetario e adesso più che mai in questo periodo nelle mie vene scorre più Radio 24 che sangue. Bravi, buon lavoro e buona giornata da Stefano. Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno Deborah, come stai? Allora, sto molto bene e peraltro ero molto incuriosita dal fatto che come prima notizia dovessimo dare i problemi Deborah, Deborah, abbiamo un pochino di problemi col tuo collegamento. Allora, aspetta, diamo come questa prima notizia, la darò io da studio, proviamo a ripristinare il collegamento. Adesso l'ottima Claudia Schiattone, vediamo un po', ci sei? Proviamo, proviamo. Ma lo vedo precario stamattina. Questa quindi mattina. Stai tuned, come dici tu, stai sì. Accorto perché mi dovrei soccorrere più volte. No, quindi dovevo raccontare dell'INPS, il cui sito ieri ha funzionato a singhiozzo, ma devo dire che anche io oggi gli farò buona compagnia. Anche noi siamo un pochino a singhiozzo. Effettivamente il sito INPS però ieri ha fatto tirare più di qualche accidente, diciamo accidente, a diversi cittadini e anche professionisti, consulenti del lavoro, mi pare. Esatto, anche perché naturalmente stanno partendo tutte le come dire, piattaforme che singolarmente tutte le categorie professionali dovranno utilizzare per accedere alle indennità, agli strumenti, gli ammortizzatori sociali che funzioneranno in via straordinaria in questo periodo, e quindi ieri tutti hanno avuto fretta di collegarsi per vedere a quale strumento appunto poter accedere. E peraltro a far compagnia naturalmente a tutti coloro che si sono lamentati ci si sono messi anche i consulenti del lavoro, che hanno organizzato peraltro per domani gli stati generali dei consulenti del lavoro. Che cosa hanno lamentato ieri questi professionisti? Hanno sottolineato che il pagamento degli ammortizzatori sociali messi in campo per l'emergenza richiederà tempi molto lunghi e le procedure attualmente previste dalla normativa di riferimento e dalle regolamentazioni amministrative non permetteranno tecnicamente di arrivare entro il 15 aprile alla liquidazione delle somme da erogare. Quindi un vero e proprio SOS che sicuramente non metterà di buon umore tutti quei professionisti e lavoratori che avranno bisogno appunto di accedere a questi ammortizzatori sociali straordinari messi in campo in questo momento. E in tutto questo noi, Mauro, invece oggi di che cosa parliamo? Noi ci prepariamo a cercare di capire come e quando, da domani, dal mese di aprile, tutte queste provvidenze, questi sostegni verranno erogati a chi ne ha diritto. E sappiamo che le platee sono diverse, appunto, specialmente i lavoratori autonomi, le partite IVA, i lavoratori dello spettacolo. Insomma, c'è questa richiesta di 600 euro per sostegno per attività che non hanno avuto alcuna possibilità di guadagno o quasi nessuna possibilità di guadagno. E allora per questo anche appunto il rallentamento del sito INPS di cui vi abbiamo raccontato. Oggi ci concentreremo su due aspetti di queste provvidenze. L'una, la richiesta di sospensione dei mutui. Qui è tutto pronto, ci c'è tutti i decreti possibili e immaginabili, insomma basta che le banche concedano la sospensione. E seconda parte invece andremo proprio sui 600 euro. Come sempre ospiti di valore mondiale, come sempre i numeri di telefono 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 se volete mandarci sms o whatsapp, già lo state facendo, oramai siamo diventati, cara Deborah, un po' uno sportello. Cerchiamo di dare il maggior sostegno possibile, davvero per quanto possiamo, alla tutte le persone che hanno bisogno e che sono in difficoltà, in maggiori difficoltà in questo momento. Abbiamo un ricchissimo giornale radio del risparmio, quindi se tu sei d'accordo io andrei e come subito potrei con... essere in disaccordo? Io andrei subito con la sigla, vedo che mi fanno cenno dalla regia che sono d'accordo, e d'accordo anche Claudia Schiattone. Quest'oggi affianca, come sempre, l'onnipresente anche da distanza Marco Lombardo, Claudia Schiattone invece assistente, ma noi preferiamo dire badante di prossimità. Giornale radio del risparmio. Meazza con Rosciani la mattina, In sordis ho la meglio medicina. Allora, Deborah, se tu volessi qualcosa da leggere, non so se hai libri hai abbastanza. No, io ti consiglierei la lettura del circolare IMSS, probabilmente già lo stanno facendo in molti, non solo i professionisti, perché oramai escono circolari IMSS, diciamo, in continuazione, perché tante sono le misure, appunto, di sostegno del cosiddetto decreto legge Cura Italia, il decreto legge numero 18 del 17 marzo scorso. Ce ne sarebbero diverse da citare che, appunto, si occupano della cassa integrazione guadagni. A questo proposito, sul sito del Sole 24 Ore trovate le domande, i formulari per fare le domande della CIG, CIG in deroga, CIG ordinaria, su www.ilsole24ore.com, le abbiamo messe a disposizione proprio oggi. Ci sono circolari, dicevo, sulla cassa integrazione, le casse integrazioni, perché ce ne sono di diverso tipo. Ci sono circolari sui congedi, sui permessi da legge 104 per chi deve assistere una persona con gravi disabilità. E poi da ultimo c'è anche stata una circolare, lo segnala oggi il Sole 24 Ore, sull'erogazione, appunto, dei contanti, dei soldi sui conti correnti. Allora, dal 10 di aprile l'INPS semplificherà l'erogazione sui conti correnti, non chiederà più questo modello, si chiama SR163, in pratica un foglio che serviva portare alla banca, farvi dimare alla banca per dire sì, sono proprio io e ho questo conto corrente, ho diritto ad avere i 600 euro. Allora, questa procedura sarà ancora utilizzata fino al 10 aprile, ma dal 10 aprile invece sarà completamente semplificata, non ci sarà più bisogno di questa cosa. Che significa? Significa che da domani si potranno fare le domande, ad esempio, dei 600 euro. Siccome presumibilmente per l'erogazione ci vorrà qualche giorno, non dovrebbe essere necessario attivarsi, anche perché andare in banca in questo periodo è abbastanza complicato, le filiali sono per lo più chiuse o ricevono solo su appuntamento. Deborah. Allora, Mauro, nonostante la precarietà del collegamento, provo a dare la prossima notizia a proposito di banche. Niente, ti sentiamo sempre a singhiozzo. Allora passiamo a questo punto alla telefonata, facciamo subito al volo con Claudia Schiattone un ponte telefonico. Io vi segnalo, ce l'abbiamo? Sì, posso riprovarci, se non va a buon fine questo tentativo, mi collego telefonicamente. Allora, parlavamo di banche e tu giustamente ricordavi poco fa come anche gli istituti di credito hanno concesso ai loro lavoratori di lavorare in regime di smart working, per cui molti meno uffici chiusi e quindi chiaramente anche un po' più di problemi per gli utenti, cittadini, clienti ad interagire direttamente con i funzionari che dovrebbero sbrigare molte pratiche in questa fase. Allora, noi ovviamente ci divertiamo un pochino ogni giorno nell'esercizio di massacrarle quando non danno retta alle persone che hanno bisogno. C'è anche da dire che in questo frangente di difficoltà molte banche si sono mosse ancora prima che venissero varati tutti i provvedimenti che suggerivano loro di accontentare le persone in difficoltà e nella necessità di sospendere i mutui. Altre banche invece non solo non hanno letto minimamente i provvedimenti, ma continuano ancora a respingere al mittente le richieste delle persone, e poi ci sono tutte quelle che invece si sono adeguate agli adempimenti varati, ai provvedimenti appunto varati in questi giorni, e noi sarà a queste che ci dedicheremo nel nostro primo approfondimento fra poco. C'è però anche da dire che in questo momento il sistema bancario è notevolmente sotto stress, aggiungere difficoltà, sì? Ti Niente, sento? Stiamo perdendo, Deborah, come gli astronauti sull'Apollo di quando io ero ragazzino. Allora, facciamo così, completo io la notizia. Volevamo segnalarvi appunto il diverso comportamento degli istituti di credito, come avete sentito da Deborah, e anche la convenzione nazionale definita dall'Associazione Bancaria Italiana per consentire di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti ordinari di cassa integrazione, di integrazione al reddito. Quindi sostanzialmente le banche saranno in grado di attivare con modalità semplificate un'anticipazione, si parla di 1.400 euro. E un'altra anticipazione sarà per quanto riguarda gli abbonamenti ferroviari. Vediamo se abbiamo recuperato adesso il collegamento con Debora. Sì, ma al telefono. Debora, buongiorno. Sì, buongiorno. Guarda, se non funziona neanche il telefono, oggi vengo direttamente là a piedi e pazienza, verrò fermata da qualche forza dell'ordine che mi contesterà il trasferimento, lo spostamento, ma produrrò tutta la documentazione necessaria. Produrremo anche il file audio della difficile partenza di questa puntata. Gli ascoltatori, esatto, avranno, sì, pazienza, anche noi. Purtroppo dobbiamo un po' arrangiarci nelle condizioni date, come tutti. Uh-huh. Debora, mi sono permesso di completare con la notizia della convenzione dell'ABI, uh-huh, per appunto l'erogazione anticipata delle casse integrazioni, in deroga Covid-19. Stavo segnalando appunto che c'è un comunicato di Confconsumatori che richiede il diritto al rimborso per l'abbonamento ferroviario non utilizzato nel mese di marzo, ed ero qui proprio per lanciare la pillola di Investire in Formati, ma poiché è stata una tua meritoria iniziativa, ti chiedo di farlo tu, ancorché dal telefono. Grazie Mauro. Allora, il punto è stato questo, che molti consulenti finanziari ci hanno interpellato per darci la loro disponibilità a in qualche maniera orientare i risparmiatori in questa fase, risparmiatori che nelle ultime 3 o 4 settimane hanno visto i mercati molto ballerini, molto sull'ottovolante, quindi qualcuno si è chiesto cosa devo fare, devo intervenire, e quindi anche come tutti i lavoratori hanno bisogno in questo momento di avere una bustola per capire che cosa fare, è una cosa che serve, uno strumento che serve anche ai risparmiatori. Per cui ho chiesto a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità: regalateci un minuto e mezzo della vostra attenzione, regalateci un vostro messaggio da girare in questo momento alla platea dei risparmiatori che osservano quello che succede attorno a noi, chi più chi meno con un po' di apprensione. E allora oggi la parola è quella di Raffaella Cristiano, senior partner di Allianz Bank Milano. Investire informati. Nel corso della mia trentennale esperienza nel mondo della finanza ho vissuto più di una crisi finanziaria, dalla più recente crisi dovuta all'Ebola in Africa alla grande crisi finanziaria del 2008. Tutte queste situazioni di grande stress per i mercati finanziari hanno messo a dura prova la fiducia dei risparmiatori. Il consiglio che mi sento di dare agli ascoltatori e che continuo a dare ai miei clienti in questo momento molto difficile è quello di mantenere la barra dritta. Se il vostro orizzonte temporale non è cambiato e il vostro portafoglio rispetta il vostro profilo di rischio, la storia ci insegna che un investimento ben diversificato è la risposta alle paure di questi giorni. Mantenere le posizioni, quindi, e non fare scelte dettate da un comprensibile stato di ansia. Il mondo andrà avanti anche dopo il coronavirus. Dillo a due di denari. Se non ho avuto problemi e sto lavorando e ho i soldi, perché devo chiedere di non pagare le rate o devo prendere dei sussidi? Cerchiamo di essere delle persone oneste e non solo di rivendicare i nostri diritti, ma cercare anche di rispettare i nostri doveri. Non capisco perché non bisogna pagare se uno può farlo. Questo è un bel tema decisamente, perché in qualche maniera lo abbiamo evidenziato anche ieri quando con Laura Ambrosi abbiamo affrontato la questione delle necessità delle persone che hanno bisogno di sospendere i versamenti fiscali e contributivi in questo momento. Ma è un tema che era emerso anche nei giorni scorsi quando abbiamo interpellato alcune associazioni dei consumatori che ci hanno aiutato ad orientarci sui bisogni più importanti di molti nuclei familiari, quelli che da un giorno all'altro veramente non hanno più avuto nessun tipo di entrata, ed è successo per molte persone, soprattutto per i lavoratori autonomi che stanno facendo i conti sul loro giro d'affari che maturerà da qui alle prossime settimane, che sarà pari a zero. Quindi ci sono sicuramente centinaia di migliaia di famiglie che hanno assolutamente bisogno di interrompere tutte le uscite finanziari in questo momento. Ci sono però tante altre persone che hanno la fortuna di mantenere il posto di lavoro e quindi di avere tutte le risorse per poter mantenere gli impegni finanziari, eppure da parte di molti c'è stata la tentazione di chiedere provviste, sostegni, liberatorie ad ogni livello. Posso non pagare la bolletta questo mese? Posso non pagare il mutuo questo mese? E no, questo non è un beneficio per tutti, ma solo per le persone in grande difficoltà. E purtroppo stiamo scoprendo che sono tanti i nuclei familiari che hanno questi bisogni. E allora ci attacchiamo subito, caro Mauro, il primo tema che vogliamo affrontare questa mattina, per il quale abbiamo interpellato uno dei massimi esperti possibili, che è la nostra amica Anna Vizzeri dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo, che salutiamo. Anna, buongiorno e bentrovata. Grazie, buongiorno. Allora Mauro, ricominciamo un po' a dare battaglia su uno dei nostri temi preferiti in queste settimane, sì, che è vero. Il mutuo, la sospensione del mutuo è previsto. C'è una sigletta appunto per introdurre il tema. È il mutuo, il pensiero peggiore del mondo. Magari non è il pensiero peggiore del mondo, però insomma, se uno cerca la sospensione e in qualche modo non riesce a ottenerla, diciamo che un pochino si impermalisce, per dir così. Però Anna Vizzeri, c'è tutto, le banche sono in condizione di disporre la sospensione e in forza delle misure adottate per l'emergenza Covid, per l'emergenza coronavirus, non è più richiesto l'ISEE, quindi non c'è più la soglia ISEE. Fin qui arrivo io, completi lei però. Allora sì, è vero, da ieri abbiamo il nuovo modulo che si deve compilare da scaricare sul sito della Consap, quindi www.consap.it. Lo si scarica e ovviamente se si hanno tutti i requisiti indicati dal regolamento per poter accedere alla sospensione con il fondo statale, si può sostanzialmente compilarlo, firmarlo e consegnarlo con la documentazione alla banca. E qui iniziano i problemi, nel senso che, come avete già detto, molte banche sono sostanzialmente o chiuse, alcune agenzie o ricevono su appuntamento. E nella task force, sostanzialmente, che è stata creata anche con ABI e il Ministero dell'Economia, sta cercando di risolvere questa problematica, quindi di evitare soprattutto gli spostamenti direttamente in agenzia per queste persone, quindi si dovrebbe poter fare tutto via email. Sostanzialmente si compila il modulo, lo si firma, peraltro un'altra agevolazione è che se ci sono più intestatari o c'è anche un garante, non è necessario andare a recuperare gli intestatari o i garanti che si trovano altrove rispetto alla propria abitazione, ma basta che il richiedente firmi per il nome e anche per conto dei eventuali intestatari e garanti. Quindi che potrebbero essere, non so, spesso sono i genitori, no? Perché esatto, che magari sono altrove. Nella prassi, con le, ecco, esatto, con le nella prassi sono i genitori, si sono fatti garante del mutuo richiesto dal figlio, dalla figlia. Scusi, esatto. L'ho interrotta, ma no, prego. Perché non si perdesse nessuno per strada, prego. Esatto, quindi in caso appunto ci siano anche dei garanti che non abitano con il richiedente può firmare per conto e in nome anche dei garanti, quindi questa è un'ulteriore facilitazione. Peraltro l'ABI sta anche pensando di fare in modo che la documentazione possa essere inviata non soltanto in formato scansione, che anche in questo caso potrebbe essere un problema in questo periodo, ma addirittura in formato foto, quindi si fa una foto alla documentazione che deve essere allegata e la si spedisce sempre via email o con altra modalità, per esempio WhatsApp, alla banca. Quindi tutte facilitazioni per rendere possibile la sospensione. Detto questo, forse è il caso di ricordare quali sono i requisiti per poter esattamente accedere. Perché non vorrei che passasse proprio il messaggio che abbiamo dato inizialmente, no? Che anzi che viene un po' distorto, cioè che tutti pronti via possono adesso chiedere alla banca di sospendere il mutuo. Bisogna dimostrare veramente di essere in una condizione di difficoltà e soprattutto la grande novità di questi ultimi provvedimenti è che l'operatività del cosiddetto fondo Gasparini è stata estesa ai lavoratori autonomi, sui quali poi peraltro per altre cose torneremo nella seconda parte del programma. Anna. Sì. Ecco, quindi allora iniziamo con il DIE, che ovviamente è una misura di sostegno alle persone, alle famiglie in difficoltà, quindi se possiamo pagare le nostre rate del mutuo facciamolo, perché ovviamente poi comunque prima o poi bisognerà pagarle, non si tratta di un annullamento ma di una sospensione. Detto questo, allora chi può accedere? Innanzitutto deve trattarsi di un mutuo per l'acquisto di un'abitazione principale, quindi qualsiasi altra tipologia di mutuo, per esempio anche il mutuo di ristrutturazione o il mutuo per l'acquisto di una seconda casa, non è sicuramente coperto da da questa sospensione delle rate, né sono coperti prestiti o qualsiasi altra tipologia di credito al consumo, quindi mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, deve avere un capitale erogato non superiore a 250.000 euro e l'abitazione non deve avere caratteristiche di abitazione di lusso, quindi villa o abitazione con piscina legata, un castello e via dicendo. Dopodiché chi può accedere? È stata annullata, come avete giustamente detto, per le richieste che sono presentate nei prossimi 9 mesi, quindi fino a metà dicembre, la richiesta del reddito ISEE. Precedentemente potevano accedere alle sospensioni soltanto le persone che dimostravano di non avere, di avere un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro, quindi questo requisito non è più richiesto per 9 mesi, però bisogna ovviamente dimostrare di essere in difficoltà. Chi può accedere? Chi ha perso il suo rapporto di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, o un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, chi ha un handicap grave, un'invalidità superiore all'80%. Poi un'altra aggiunta che è arrivata con il decreto del 2 marzo, ma che adesso è inserita sostanzialmente nella regolamentazione e rimarrà sempre presente, è la possibilità di accedere per chi ha avuto una sospensione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi o una riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi con una riduzione dell'orario di almeno il 20%. Queste sono ovviamente delle situazioni introdotte a seguito dell'emergenza coronavirus o per tutte le attività che hanno subito una chiusura, una riduzione dell'orario di lavoro e in questo caso si può accedere appunto alla sospensione della rata dimostrando di aver subito queste casistiche con un'autocertificazione anche del datore di lavoro e si può chiedere la sospensione. Attenzione perché in questi casi ci sono dei limiti dovuti a quanto tempo è durata la riduzione dell'orario di lavoro, la sospensione del lavoro. Quindi, ecco Anna, scusami, no, volevo introdurmi solo per chiarire un aspetto, perché ci sono molte persone che ci scrivono e che lamentano il fatto che questo mese la rata è comunque, come dicono loro, scesa, no? E quindi è stata necessariamente versata, e molte persone, stamattina anche qualche giornale riportava di qualche testimonianza di molti piccoli commercianti che per esempio già da questo mese per l'interruzione improvvisa delle entrate non riescono a rispettare la scadenza, ma in realtà per accedere a questa facoltà data dall'ampliamento del fondo Gasparini si può fare domanda praticamente da oggi in avanti, ieri, perché la modulistica da ieri, esatto, perché la modulistica è. Però diciamo non è che la sospensione purtroppo è avvenuta già questo mese, possiamo in via teorica parlare della prossima rata che arriva, quella del mese di aprile. Assolutamente sì, diciamo che ci sono anche dei tempi da rispettare, nel senso che la banca raccoglie la documentazione, deve poi spedirla a Consap, alla quale dà il suo responso positivo o negativo e poi arriva la comunicazione al mutuatario, quindi diciamo che almeno ci vogliono 30 giorni dalla consegna della domanda con i documenti e che diventano 45 se il mutuo è stato cartolarizzato, cioè è stato ceduto alla banca ad un altro operatore, quindi dai 30 ai 45 giorni almeno per poter avere la sospensione. È chiaro che qualche rata ovviamente dovrà essere nel frattempo pagata, però dal momento in cui si consegna la domanda, diciamo che le rate che devono essere pagate vengono in qualche modo già sospese, perché non partono gli interessi moratori, la banca non calcola il ritardo della rata, quindi c'è già una sorta di facilitazione. È chiaro che però la sospensione vera e propria parte quando arriva la comunicazione del nuovo piano di ammortamento con la sospensione e poi la ripresa. Ma questo, ci vogliono un po' di giorni. Ma questo, dottoressa Vizzari, significa che se io riesco a depositare tutto quanto domani in forma anche di email, per dire, alla mia banca e mi accettano tutto, però forse non faccio in tempo a sospendere neppure la rata scadente a fine aprile? Sì, perché come dicevo prima ci vogliono 30 giorni. Questo ci è 30 giorni. Il tempo tecnico necessario. Tra l'altro in diversi continuano a scriverci che se hanno chiesto in banca dicono che non hanno istruzioni. Ecco, questa cosa di non avere istruzioni, devo dire, adesso un pochino una melina che vorremmo vedere cessare. Ricordiamo che è un fondo che già esisteva, quindi sostanzialmente le banche già conoscono questa procedura, si tratta semplicemente di estenderla alla nuova casistica con il nuovo modulo che comunque già riprende tutte le nuove norme ed è abbastanza facile da compilare anche da verificare. Quindi diciamo che ci aspettiamo che almeno su questo le banche siano insomma rapide reattive. Reattive. Grazie. Aggiungiamo una cosa per gli autonomi e i liberi professionisti, anche loro possono accedere alla sospensione per i prossimi 9 mesi, devono autocertificare di aver subito un calo del fatturato superiore al 33% tra il 21 febbraio 2020 e un trimestre o fino al momento della richiesta di sospensione rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Basta un'autocertificazione. Grazie ad Anna Vizzari, che è dell'Ufficio Studi Economico-Giuridici di Altro Consumo. Potete riascoltare, se qualcosa vi è sfuggito nella descrizione, tutta questa puntata sul sito www.radio24.it. Le puntate sono sempre a disposizione. E adesso, potremmo anche, prego, Mauro, Deborah. Sì, so che tu con grande enfasi mi lanci come sempre a quest'ora per il resoconto della seduta di borsa, ma io direi anche di fare una call to action, come si chiama, se le banche, i grandi istituti di credito volessero intervenire a Due di Denari per raccontarci cosa stanno facendo, quali sono le difficoltà che hanno nell'accontentare le persone, perché noi ne prendiamo atto e siamo assolutamente consapevoli che in questo momento ci sarà l'affastellamento delle richieste agli istituti di credito, quindi non si possono accontentare tutti in un secondo. Allora venitecelo anche a raccontare, saremo ben lieti di raccogliere anche le vostre ragioni. Un'ultima cosa che voglio raccontare è di un ascoltatore che ci scrive se può interrompere il suo finanziamento in corso con una grande società di credito al consumo per l'acquisto di una vettura. No, il credito al consumo non è contemplato in questo momento, a meno che la banca stessa o il soggetto, l'intermediario finanziario di cui Franco nel suo messaggio parla, di sua iniziativa non sospenda. Io non credo che la norma impedisca agli intermediari finanziari di fare qualcosa autonomamente, però la norma, le norme recenti non prevedono niente in questo senso. Scusami Mauro, ma mi faceva appunto piacere sottolineare anche questi aspetti. Tutte informazioni che speriamo vi siano preziose. Intanto ci ha scritto su WhatsApp un ascoltatore: confermo che mia moglie lavora in una grande banca, si occupa solo di mutui e fino a ieri non aveva avuto indicazioni su come procedere ed era disperata perché era anche sommersa dalle richieste. Quindi, insomma, non facciamo melina, andiamo a sentire come vanno le borse oggi. Meglino, vero Deborah? Vai, vai, sì, vai. Meglino. Deborah, sei in ritardo. E come vai a press? Deborah, le borse. E mo' faccio, ma vai a press? Due di denari. Dov'è il nuovo lavoro? Sono un libero professionista, non ho mai lavorato così tanto, anche se con l'angoscia, come in questo periodo, per cui condivido quello che ha detto l'ascoltatore di prima, non ho la necessità di prendere alcun contributo, per cui anche questa verifica andrebbe fatta. Non credo che tutti abbiano questa necessità e chi non ne ha la deve lasciare a chi ne ha più bisogno. Grazie. È una questione di solidarietà, o se volete, lo dicevamo ieri con a proposito delle scadenze fiscali, con Laura Ambrosi, esperta fiscale del Sole 24 Ore, è anche una questione di restare in tempo con i vari pagamenti, non ritrovarsi, se si può naturalmente, poi tutte la ripresa dei pagamenti tutta insieme, magari d'estate, ci auguriamo quando si sarà tornati tutti alla normalità. E adesso però parliamo proprio di liberi professionisti, di lavoratori autonomi, insomma di tutte quelle categorie per le quali sono stati previsti i 600 euro, oramai si chiamano così, potrebbero persino diventare 800, questo il governo ha lasciato trapelare, sai Deborah, vediamo, perché per adesso parliamo di 600 euro, le domande da domani. Io però, siccome abbiamo un esperto oramai abituale, che è una specie di titolare di cattedra sulla materia, cedo la parola a lui, Enzo De Fusco, consulente del lavoro, che praticamente oramai tutti i martedì o mercoledì si collega con noi e così in questi 20 minuti cerca di raccontarci un pochino come vanno le cose. Allora, siamo in tempo, cioè da domani parte tutto quanto, perché il sito dell'INPS sta facendo le bizze oggi e anche ieri ha fatto le bizze. Sì, in effetti, intanto buongiorno a tutti. In effetti il sito sta andando come tutti immaginavamo, un po' in difficoltà. È chiaro che è un sito programmato per assistere alcuni milioni di utenti e qui invece a tutto ad un tratto questi milioni si sono moltiplicati almeno di 10 volte. E quindi è evidente che il sistema informatico ne sta risentendo. Io spero che l'istituto stia correndo ai ripari, perché ha una direzione informatica riconoscere a chi ne ha davvero bisogno questa indennità importante che tutti stanno aspettando. L'istruttoria personale sarà particolarmente complicata, andiamo alle alla documentazione, alla certificazione che una partita IVA dovrà presentare da domani per richiedere questa indennità da 600 euro, corretta peraltro Enzo chiamarla così perché molti la chiamano sussidio, indennizzo, è un'indennità, speriamo quanto più provvisoria possibile perché speriamo che tutti possano riprendere al più presto a lavorare, però intanto qual è anche la definizione corretta di questa sì. Io non sono molto affezionato al nome che diamo alla somma, perché la puoi chiamare indennità, la puoi chiamare sussidio, puoi chiamarla come vuoi, poi alla fine la legge la definisce una somma esente da imposta e quindi 600 sono lorde ma anche nette sostanzialmente, però sì, forse è giusto come tu dici chiamarla un'indennità che viene riconosciuta al ristoro di un disagio che è oggettivamente presente nelle famiglie di questi lavoratori, così come la cassa integrazione ristora un disagio per le famiglie dei dipendenti, quindi siamo in questi termini. Allora, io vorrei riepilogare, cara Debora, un pochino le regole generali, perché esatto, magari le sappiamo tutti, io un pochino sempre tendo a fare confusione. Allora, innanzitutto serve avere una partita IVA attiva al 23 febbraio scorso, quindi se io l'ho attivata nei giorni successivi non ho diritto, è così Defusco? È così, così Mauro. Sì. Poi i 600 euro, io li chiamo così per brevità, non mi addentro in categorizzazioni, sono erogati dall'INPS ai professionisti non ordinistici, cioè sono esclusi quei professionisti come i giornalisti, ad esempio, gli avvocati, i commercialisti, i consulenti del lavoro, che hanno dei loro enti previdenziali, quindi non sono assicurati, non versano all'INPS ma alle loro casse. Per questi professionisti ci sarà invece questo reddito di ultima istanza, tra l'altro c'è un decreto firmato da il Ministro del Lavoro e la Ministra del Lavoro e il Ministro dell'Economia, che stabilisce appunto l'inclusione dei professionisti ordinisti nel reddito di ultima istanza. Oggi ne riferiamo sul Sole 24 Ore. Restiamo invece sui 600 euro INPS, Defusco. Spettano a coloro che sono iscritti nella gestione artigiani, gestione commercianti, coltivatori diretti, colonie e mezzadri, e ai collaboratori, cioè quelli della gestione separata INPS. Cosa ho sbagliato, Defusco? Beh, direi assolutamente nulla e potrei essere anche inutile in questa trasmissione con la tua presenza. No, beh, non scherziamo, perché in realtà al nostro forum sull'Esperto Risponde, appunto sul sito del Sole 24 Ore, l'Esperto Risponde, sono arrivate decine e decine di domande. Ho diritto, non ho diritto, se sono iscritto come amministratore di SRL ad esempio ho diritto o non ho diritto, però adesso stiamo proprio sui fondamentali. Io presento la domanda da domani, mettiamo che ci riesca. Esatto. Ma sti 600 euro quando mi arrivano? Allora intanto provo a dare un contributo sulla platea dei beneficiari, quindi prego. Tutto giusto, partita IVA attiva alla data del 3 febbraio, del 23 febbraio, anche la collaborazione coordinata e continuativa deve essere attiva alla data del 23 febbraio, e proprio su quest'ultima categoria intanto si pone un tema, ma se sono un lavoratore occasionale iscritto all'INPS, alla gestione separata, perché ho preso più di 5.000 euro, ho diritto? A rigore non ha diritto questo lavoratore, perché non ha una forma di collaborazione coordinata e continuativa. Quindi la collaborazione occasionale non consente di accedere a 600 euro? Ancorché iscritta alla gestione separata dell'INPS. Capito. Questa è perché non ha una forma di collaborazione. Poi se l'INPS la vuole estendere con una futura circolare, sapete che a questo punto tutto potrebbe essere possibile. Noi abbiamo visto interpretazioni che sono andate ben oltre la legge, quindi però se stiamo al tenore della norma, un occasionale non è un lavoro coordinato e continuativo e quindi ad oggi non spetta. Poi è stata fatta anche un'altra domanda che è stata, tu stesso hai richiamato, che è quella degli amministratori. Allora, l'amministratore è comunque una forma di collaborazione coordinata e continuativa di natura previdenziale, tant'è che queste collaborazioni pagano i contributi pieni al pari di un'altra forma più generalista di collaborazione coordinata e continuativa, e la legge non fa distinzione. Quindi io devo purtroppo appartenere a quella categoria di professionisti che ritiene che anche l'amministratore, se è in forza presso quel tipo di azienda, avrebbe diritto ad ottenere questa indennizzo. Sono esclusi se contemporaneamente queste categorie sono anche titolari di una pensione diretta, ovvero sono iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria. Quindi queste sarebbero in ogni caso casistiche che ti portano ad essere escluse. Aspetti De Fusco, perché siamo perfettamente in orario con il lancio della viabilità. Abbiamo anche diversi ascoltatori che ci stanno ponendo delle domande puntuali. Allora, con il suo permesso e naturalmente anche il permesso di Deborah, ma soprattutto con la collaborazione della regia dall'altra parte del vetro, è il momento del traffico. Due di denari. Allora, abbiamo un ascoltatore, cara Deborah, che certo, molto volentieri. È Alberto, la provincia di Treviso. Facciamo fare la domanda a lui. Buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti, grazie mille. Io non riesco a trovare informazioni, o magari le avete date e non le ho sentite. Io ho iniziato a lavorare alla fine di gennaio e fino al raggiungimento dei 6.000 euro però ho pagato in ritenuta d'acconto. Quindi non avendoli raggiunti non ho potuto aprire ancora la partita IVA. Non riesco a capire se mi spetta qualche tipo di aiuto, ho visto la situazione o meno. Temo di no, però chiediamo la conferma a Enzo De Fusco, che ne sa molto ma molto più di me. Prego De Fusco. Concordo sul fatto che purtroppo questa situazione non dà diritto a una specifica indennità. Quello che si può verificare, perché è sempre un'ipotesi da tenere in considerazione, è il fondo di ultima istanza, cioè quindi capire in che termini eventualmente avere requisiti che possano darmi diritto a quel tipo di indennizzo. Quindi direi però che in questo caso non ravvedo profili che possano dare luogo a qualsiasi indennizzo. La normativa che potrebbe vigente, essere, no? Esatto, Mauro, anche il famoso contenitore che potrebbe accogliere anche, lo dico perché ci stanno continuando a scrivere, i collaboratori familiari, i badanti e quindi tutte, esatto, quelle professionalità che hanno questo rapporto. Avevo una domanda per Enzo, Mauro, se mi consente. Perché mi veniva questa curiosità sulla base anche del ragionamento che abbiamo fatto in precedenza con Anna Vizzari per i lavoratori autonomi che possono fare la richiesta per il fondo Gasparrini e per sospendere temporaneamente appunto il mutuo. Queste persone, questi lavoratori, devono presentare naturalmente una certificazione che determini che ci sia stato questo tracollo di almeno il 30% del fatturato del primo trimestre di quest'anno. Per quello che riguarda invece la possibilità di richiedere l'indennità da 600 euro De Fusco, questo non è un requisito richiesto, cioè non bisogna dimostrare di aver avuto una riduzione così drastica del fatturato. E quindi mi chiedo, anche l'ascoltatore che ci ha chiamato prima, che ci ha detto io lavoro e sto lavorando talmente tanto che non ho certamente bisogno di fare questa richiesta, ma in linea teorica potrebbe farla, perché nessuno gli chiede quanta riduzione di fatturato ha avuto, o mi sbaglio o non lo vedo io. No, è proprio così. Allora, erano uscite delle bozze precedenti al decreto 18 che invece commisuravano questa indennità alla effettiva sospensione dell'attività lavorativa. Invece la versione finale del decreto assegna questa somma senza alcuna dimostrazione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il legislatore ritiene che sia oggettiva la condizione di disagio. Poi è chiaro che nella visione globale di oggettività ci può star dentro qualcuno che invece non subisce un effettivo pregiudizio e però astrattamente potrebbe richiedere la somma, poi ognuno farà i conti con la propria coscienza, però in linea di massima questa è una somma che il legislatore valuta comunque riconoscibile per una condizione oggettiva che sta passando il paese. Uh-huh. Io ho un'altra domanda per il dottor De Fusco. Chi è già percettore di una pensione, anche, non dico che è già pensionato, ma anche una pensione di tipo indiretto, e però magari ha degli introiti che lo portano ad essere iscritto, che so, alla gestione separata INPS. È una domanda che ci viene rivolta anche da qualche ascoltatore, però essere titolare di pensione mi sembra di aver capito che esclude dai 600 euro. Sì, esattamente, quello che ho detto prima, però direi che si faccia riferimento, come anche guardando un po' la storia degli indennizi precedenti e passati, in epoche passate, si fa sempre riferimento a un trattamento pensionistico diretto. Quindi io credo e spero che l'INPS confermi questa posizione. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha una pensione di invalidità, ad esempio, potrebbe accedere in ogni caso a questo indennizzo. La reversibilità, cioè il vedovo, la vedova? Io direi che questo potrebbe considerarsi preclusivo. E gli agenti di commercio, poi bravo, finisco con rischio a tutto. La parola di bocca, ecco, abbiamo la esatto, vai Enzo, con questa sì, categoria sono in tanti ad ascoltarci, sì. Su questa categoria devo dire che si è un po' giocato, soprattutto le istituzioni, perché intanto non li hanno considerati all'interno della platea. Anzi, in una prima lettura sembravano esclusi, perché loro, avendo anche l'obbligo di iscrizione all'ENASARCO, sembrava perfezionarsi quel provvedimento che li escludesse. E invece io sono convinto che gli agenti di commercio da sempre debbono essere attratti nell'articolo 28 e quindi beneficiare di questo indennizzo, però poi la settimana scorsa il MEF, stranamente occupandosi di materie lavoristiche, è uscita con una FAQ dicendo che non spetta l'iscrizione. Ora però, dopo che qualcuno evidentemente gli ha fatto capire che era una posizione proprio non espressamente in linea con la norma, proprio domenica hanno rivisto le FAQ. Se andate oggi sul sito, lo stesso MEF dichiara, in maniera a questo punto palese, che anche gli agenti di commercio hanno diritto ai 600 euro previsti dall'articolo 28. Quindi ora manca solo la circolare INPS, ma la circolare INPS direi confermerà questa posizione, quindi basta, oramai gli agenti non hanno più un problema. Quindi avremo la prova, come dire, del 9, quando domani vedremo la procedura, perché da domani poi avremo a disposizione sul sito INPS la procedura, è così? È così, infatti, dal 1 aprile, salvo impedimenti informatici, ma così è stato dichiarato, e quindi io mi aspetto che anche oggi esca una magari circolare più completa, che ci dia istruzioni più esaurienti rispetto al messaggio che è uscito un po' di tempo fa. Sarà, Enzo, sarà un click day, chi tardi arriva male alloggia, oppure per non intasare anche domani o nei prossimi giorni il sito dell'INPS, se proprio non abbiamo urgenza di fare questa domanda, possiamo anche aspettare senza rischiare che poi la nostra quota di competenza non venga erogata perché non ci sono più le disponibilità finanziarie pubbliche. Guarda, allora io sono molto critico rispetto ai provvedimenti normativi per come sono stati scritti, per come sono stati concepiti e per come li stanno attuando, ma su una cosa credo che nessuno può mettere in discussione, è che i soldi ci sono, nel senso di è chiaro che esiste un primo stanziamento. Questo stanziamento consente di finanziare un tot di domande, ma questo non significa che qualcuno, se dovesse rimanere escluso, lo sarà per sempre, cioè che non prenderà più nessun sussidio, perché nei primi di aprile arriverà un nuovo decreto che rifinanzierà questi stessi strumenti, forse anche qualcuno in più, e pertanto quello che rimarrebbe escluso nella prima versione entrerebbe di nuovo a far parte della platea dei beneficiari con il nuovo finanziamento. D'altronde non è che si può fare diversamente, 25 miliardi alla volta fin quando non finisce questa emergenza, però io credo che nessuno deve pensare che può rimanere escluso da un indennizzo di questa natura. Magari può arrivare un po' più in ritardo, ma non escluso. Quindi, insomma, diciamo che non dobbiamo immaginare la cosa come un click day. No, via via, no. Ci si prenota, insomma, se si riesce da domani bene, se no sarà dal 2, dal 3 aprile e così via. De Fusco, io mi scuso, ma qui abbiamo veramente una selva di domande, una dietro l'altra. Allora, collaboratori familiari o coadiuvanti, familiari che coadiuvano nell'impresa, come stanno messi questi signori? Allora, io direi che questa è una categoria delicata, perché in effetti l'articolo 28 fa riferimento ai lavoratori autonomi iscritti nella gestione del lago e non titolari di altre di pensione o non iscritti ad altre forme obbligatorie. Allora, direi che loro, essendo iscritti al lago e anche obbligatoriamente, non vedo un elemento di esclusione dall'indennizzo dei 600 euro. Io non lo ravvedo. Quindi dovrebbe essere, su questo è la famosa circolare INPS che dovrebbe illuminarci, tra l'altro la aspettiamo a momenti, quindi state in collegamento anche con, ad esempio, con il sito del Sole 24 Ore, www.sole24.com, il sito di Radio 24, www.radio24.it, per molte domande, scusami Deborah, faccio questa segnalazione, no, ci sono molti aspetti veramente puntuali, non puntuali, puntualissimi. Allora, abbiamo diversi di questi casi che sono stati affrontati proprio dal dottor Lorenzo De Fusco e da molti altri esperti del Sole 24 Ore nel nostro forum dell'Esperto Risponde. Lo trovate digitando il sole24ore.com/, cioè la sbarretta, forum coronavirus. È gratis, si possono mandare domande gratis, si possono consultare risposte gratis, chiediamo soltanto di registrarvi. Quindi lì potete trovare alcuni casi molto puntuali, possono trovare la risposta già fornita dai nostri esperti. Deborah. Sì, un'ultima domanda, Denzio De Fusco, se mi consente, proprio per essere molto concreti ed operativi. Abbiamo capito che da domani sarà possibile inviare la domanda all'INPS, aspettiamo da un momento all'altro la circolare con maggiori istruzioni, ma che cosa possiamo suggerire di fare alle persone che, armate di buona volontà, da domani proveranno ad inoltrare la domanda? Con che dati rispetto a se stessi è bene appunto presentarsi davanti al PC per compilare correttamente la domanda, oltre al fatto chiaramente il numero di partita IVA, la data dalla quale questa è partita, i dati anagrafici, che cosa bisogna avere a portata di mano? Ma guarda, io sono tra quelli che difende burocrazia zero su queste domande, quindi al di là dei dati anagrafici, dati legati alla partita IVA, tenersi sulla scrivania a fianco al computer la copia del contratto, e quindi a quel punto mi aspetto che ci sia la possibilità di fornire un'autocertificazione sull'esistenza del contratto a quella data, quindi che si possa in qualche modo autocertificare qualsiasi informazione INPS voglia richiedere. Questo è un modo... contratto, in che senso il contratto? Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, eventualmente. Ah, ecco, no? In quel senso, no, pensavo parlassi della partita IVA, ok, capito. No, partita IVA no, perché è la partita IVA che deve essere attiva. Questo non significa che io debba avere un contratto nell'immediato, no? Cioè la partita è attiva perché magari sto lavorando in qualsiasi forma, quindi anche questo è importante che venga detto. Grazie Enzo De Fusco. Deborah, ti saluto, dobbiamo chiudere con una precisione svizzera. A domani.